Non riesci mai a capire cosa passa in testa quando i neuroni si consumano in una guerra mentale, dove se vinci perdi lo stesso, perché partecipi solo tu che non sai quello che vuoi. C'è la spinge butta in un fosso pieno del tanchessi caduti e gettati da lei, che sembra sempre diversa ma invece sempre uguale. Monomania, non riesci mai a capire cosa passa in testa quando neuroni si consumano in una guerra mentale, dove se vinci perdi lo stesso, perché partecipi solo tu che non sai quello che vuoi. Fino a tu si mi chiama che gli sbagli, tanto anche meglio when it has to say.